Ciauru di ligna pinsati i fumaioli armono lo paese e lisciati non parrono terreni di finestre in giovinezza cuallato la cuculina mezzo olivi si cammina ¡Gracias!